Harriet Beecher Stowe. Il romanzo che vogliamo presentarvi, La capanna dello zio Tom, ci porterà per forza di cose a fare un paragone tra la schiavitù dei neri descritta dalla sudista Margaret Mitchell in Via col vento, di cui la nostra scuola ha fatto lettura integrale già da tempo, e quella descritta dalla nordista, calvinista e abolizionista Harriet Beecher. Se in Via col vento non si parlava mai delle sofferenze degli schiavi e della crudeltà loro inflitta, nella capanna dello zio Tom se ne parla e come, anzi, il romanzo si apre proprio con un dialogo tra un proprietario di schiavi e un mercante che vuole acquistarne da lui. Siamo, per così dire, introdotte fin da subito all'orrore di considerare degli esseri umani come macchine da lavoro senza sentimenti, come mezzi di produzione che si potessero comprare e vendere. E l'autrice non esita a rivelare, anche fin dalle prime pagine, che pure le chiese cristiane fossero responsabili, addestrando i neri a pensare che per essere buoni cristiani dovessero spontaneamente sottomettersi, obbedire e riconoscere i bianchi come padroni, perché questo era l'ordine naturale delle cose, e aiutando gli schiavisti in tal modo a mantenere il potere e il controllo. L'autrice fa infatti dire a una delle giovani che aprono il romanzo: "Io credetti sempre che bisogna obbedire al proprio padrone e alla propria padrona, e che senza ciò non sarei cristiana." Lo stesso zio Tom accetta di essere venduto senza ribellarsi, poiché accetta il volere di Dio da quando si è fatto cristiano. E questo fu il motivo dell'oblio che il romanzo subì dopo la straordinaria popolarità iniziale, al punto che lo stesso Lincoln, alla fine della guerra di secessione, espresse il desiderio di conoscere la piccola donna che aveva provocato la grande guerra coi suoi scritti. Ai nostri giorni il significato della capanna dello zio Tom è stato sovvertito e ridicolizzato, l'autrice è stata dimenticata e con lei il grande contributo che diede all'abolizione della schiavitù, al di là di quelle che possono essere state le effettive mire dei nordisti che, secondo una scuola di pensiero, più che essere interessati ad abolire la schiavitù, avevano messo gli occhi sulle grandi ricchezze del Sud e vedevano nella guerra un modo legittimo per razziarle. Vi sono state invece meravigliose donne che hanno dato il loro sincero contributo all'abolizionismo perché credevano davvero che possedere un essere umano fosse un abominio, contrario alla natura e alla religione. Tra queste donne, che di certo non avevano mire economiche ma solo desiderio di giustizia, Harriet Beecher Stowe ha il suo posto d'onore, poiché si colloca in quello splendido gruppo di abolizioniste che hanno contribuito con tutta l'anima alla causa, come la sua omonima inglese Harriet Martineau o come le sorelle Alcott. Per curiosa coincidenza, anche Harriet Beecher cominciò a scrivere dopo la morte di un figlio. Quante volte abbiamo assistito al processo di guarigione da un lutto, da una ferita, attraverso la scrittura delle donne. Vediamo dunque la vita di questa sorprendente antenata. Harriet Beecher nacque nel 1811 nel Connecticut. Suo padre era un pastore calvinista di convinzioni antischiaviste. Se il padre non si occupò molto dei figli, la sua seconda moglie si rivelò invece un'ottima madre per Harriet, sensibile, curiosa, divoratrice di libri, con un'innata sete di conoscenza e di giustizia. Frequentò le scuole cittadine distinguendosi da subito. A 12 anni fu pubblicamente premiata per la sua disquisizione scritta sul tema «Si possono ricavare dalla natura le prove dell'immortalità dell'anima?». Quando aveva 21 anni seguì il padre a Cincinnati, dove realizzò le sue prime esperienze giornalistiche e letterarie. A 25 anni Harriet sposò un insegnante di letteratura biblica del seminario fondato da suo padre. Non si trattò di un matrimonio d'amore, pare che l'unico ruolo del marito sia stato quello di aggiungere il suo cognome, Stowe, a quello di lei. Presumibilmente Harriet lo sposò per non essere più di peso sulla famiglia. Ebbe 7 figli, ma non rinunciò alla sua vocazione di scrittrice e di attivista. Infatti, cercando un sistema per integrare il reddito familiare, sfruttò quell'attitudine alla scrittura che sin dai tempi della scuola brillava in lei. Cominciò con lo scrivere racconti, testi di economia e raccolte di canti. Ma la disgrazia si abbatté sulle sue spalle. Quando un figlio morì di colera, fu proprio per elaborare il lutto che Harriet, come tante prima e dopo di lei, prese in mano la penna. Nel frattempo, il marito ricevette una cattedra nel Maine, apportando un netto miglioramento alla situazione economica della famiglia. Il trasferimento e la sopraggiunta tranquillità permisero ad Harriet una piena partecipazione alla vita politica e culturale. La società americana a quell'epoca era divisa tra abolizionisti e anti-abolizionisti, posizione resa ancora più drammatica dall'entrata in vigore della terribile Fugitive Slave Law, la legge sugli schiavi fuggitivi, alla fine del 1850. In essa si decretava che nessuno schiavo in fuga potesse trovare asilo negli stati dell'Unione e che i cittadini americani fossero obbligati a restituire i fuggiaschi ai loro proprietari, ricevendo in cambio un premio in denaro. Ma al nord questa legge non piacque. Erano in molti a rifiutarsi di catturare gli schiavi fuggiaschi, i quali venivano viceversa aiutati grazie alla Underground Railroad, l'organizzazione clandestina che li aiutava concretamente a raggiungere il Canada e la libertà, di cui la nostra scuola ha parlato nel docuvideo su Harriet Tubman. Il padre di Harriet era un conduttore della Underground Railroad, la ferrovia sotterranea. Dunque la futura scrittrice aveva un esempio fulgido proprio davanti agli occhi. Decise di usare il suo dono per raccontare l'abominio della schiavitù. Senza indugio si mise all'opera. Cominciò a raccogliere informazioni da documenti, dalla stampa, dalle testimonianze dirette degli schiavi fuggiti attraverso il confine tra Kentucky e Ohio. La capanna dello zio Tom è un romanzo politico. Fu pubblicato a puntate da una rivista abolizionista tra il 1851 e il 1852. La storia drammatica e la statura morale della gente di colore protagonista del romanzo, descritte con grande empatia e umanità, aumentarono moltissimo il sentimento di compassione per lo stato miserevole in cui vivevano gli schiavi e le schiave. Quando la capanna dello zio Tom apparve come libro, ne furono vendute oltre 3.000 copie solo il primo giorno. Ne fu fatta quasi subito una ristampa. Le copie andavano esaurite come uscivano dalla tipografia e alla fine dell'anno ne erano state vendute oltre 300.000. Il successo valicò l'Atlantico, arrivando in Inghilterra, in Francia, in Prussia. Fu tradotto in oltre 20 lingue, tra cui l'araba e la cinese. Non si era mai visto un tale evento editoriale, letterario, culturale, 80 anni prima di Via Col Vento. Harriet Beecher Stowe divenne nota in tutto il mondo. Frattanto, il movimento abolizionista che Harriet contribuiva a tenere vivo continuava a operare e a 10 anni dalla pubblicazione del romanzo scoppiò la guerra nel 1861 tra gli stati del nord e quelli del sud. Al termine del conflitto, che durò 5 anni, Lincoln, come abbiamo detto, volle conoscere l'autrice del romanzo che aveva così tanto mosso gli animi contro la schiavitù. Lei nel frattempo aveva continuato a scrivere un libro all'anno, era anche vegetariana e suffragista, difendeva i diritti delle donne, che paragonava agli schiavi, e degli animali. Conscia delle devastazioni che la guerra civile aveva prodotto, decise di dedicarsi a educare, tra virgolette, la gente nera, sentendosene responsabile. Per questo acquistò una grande tenuta a Mandarin, in Florida, dove si trasferì nel 1867, inizialmente per passarci l'inverno e poi vi si stabilì negli ultimi anni della sua vita. Per i suoi 70 anni furono più di 200 tra scrittori e giornalisti a inviarle auguri e commossi saluti. Per citare le sue stesse parole, nulla le diede maggiore felicità che sentire dalla bocca di un nero liberato: ho 20 capi di bestiame, 4 cavalli, 40 polli e 10 figli, e tutto ciò è mio. Nonostante la Florida fosse un ex stato schiavista, Harriet sostenne di non avere mai ricevuto uno sgarbo dagli abitanti della comunità. Spesso sedeva nell'ampio portico affacciato sul fiume e rispondeva alle migliaia di lettere da tutto il mondo. Coltivava arance e cotone insieme a uno dei figli, era molto attiva nella vita comunitaria, fece costruire una scuola per bambini afroamericani. Harriet lasciò il corpo in Florida a 85 anni, dopo anni in cui la sua mente si era indebolita, rendendola dipendente da una badante ante litteram irlandese. Ma con la sua scomparsa iniziò anche il declino del successo del romanzo, che cadde nel dimenticatoio come lei. I movimenti per la liberazione degli afroamericani accusavano Harriet Beecher Stowe di aver creato e promosso una figura di nero sottomesso e senza dignità, tanto che l'appellativo di zio Tom, che definirono buono e stupido, fu usato dagli stessi afroamericani per ridicolizzare chi non combatteva per i propri diritti. In realtà sappiamo che la non violenza è una forma di militanza altrettanto efficace che la violenza e ce l'hanno insegnato il Mahatma Gandhi e sua moglie Kasturba. Leggendo La capanna dello zio Tom, noi della scuola delle donne non abbiamo l'impressione che Tom sia sottomesso. Egli accetta di essere venduto e rifiuta di fuggire sapendo che se lo avesse fatto avrebbe messo in pericolo gli altri schiavi e schiave. Sembra anzi che Tom sia molto più forte di coloro che lo perseguitano, proprio grazie al coraggio di immolarsi generosamente accettando la sua sorte. La figura dello zio Tom, che fra parentesi in psicologia è divenuta una sindrome che identifica sottomissione, asservimento e eccessiva mansuetudine, fu ispirata dalla biografia di Josiah Henson, un afroamericano divenuto predicatore e praticante della non violenza dopo essersi fatto cristiano. Josiah cercò, senza successo, di comprarsi la libertà, ma quando scoprì di essere stato venduto, rifiutò di usare l'arma di cui pure era in possesso, preferendo fuggire in Canada, dove divenne attivista per i diritti dei neri. Tuttavia, la macchina del fango, come al solito, ha fatto il suo lavoro e la capanna dello zio Tom non viene più letto. La scuola delle donne è lieta di presentare di Harriet Beecher Stowe La capanna dello zio Tom, Liber Liber Edizione, traduzione ignota. Da Devana, buon ascolto.